tutta questa fatica passerà, dentro al buio che luce ti verrà, senza una vita sempre in bilico, oh no. Tutta questa salita finirà, con le gambe si corre e si va, ma se non ce la fai col cuore tu non ci sei. È come farsi sorpassare dal tuo più lento di te, è come perdere l'occasione di vedere che la ragione ed il cuore possono andare in una sola direzione. Liberi, liberi, liberi, liberi di vivere la vita come ci fa. Liberi, liberi, liberi, ma ancora costretti a vivere a metà. Solo, solo, in mezzo a un battito d'ali di una farfalla che non vola più, accetto con tensione e paura la mia ultima sfida, la mia ultima strada. E ascolto questa musica che rispecchierà chi sono e cosa faccio fra dei redossi là. Attorno a me perché, attorno alla mia mente che troppo chiede e non fa. Aprirò la porta e ti farò entrare, con il sorriso mi sciolgo e passo le paure, e avremo ancora paura del buio ma insieme la supereremo. Liberi, liberi, liberi, liberi di vivere la vita come ci fa. Liberi, liberi, liberi, ma ancora costretti a vivere a metà. Liberi, liberi, liberi, una paura che forse paura più non fa, non fa, non fa, non fa. Come ci fa? Liberi, liberi, liberi, ma ancora costretti a vivere a metà. Liberi, liberi, liberi, una paura che forse paura più non fa, non fa, non fa, non fa, paura più non fa.